Ho combattuto in questi giorni per decidere quale parola dovessi portarvi. Mi llevó bastante tiempo, estuve muy ocupado tratando de decidir qué palabra traerles en esta mañana. Alla fine ho deciso per una parola che sta lavorando nel mio cuore da alcuni mesi. Finalmente me decidí por una palabra que está trabajando en mi corazón desde hace algunos meses. Perché credo che alla fine sia sempre la cosa migliore. Porque creo que así siempre las cosas van mejor. E così vogliamo leggere l'Apocalisse capitolo 2. Así que vamos a leer Apocalipsis 2. Leggiamo i versetti da 2 fino a 7. Vamos a ver los versículos 2 al 7. Apocalisse 2, da Apocalisse 2, dal versetto 2. Versículos 2 al 7. Ok. Puoi leggere. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Parola del Signore. Palabra del Señor. Questa parola è arrivata a me e a mia moglie qualche mese fa. Esta palabra llegó a nosotros, a mí y a mi esposa, hace unos meses. Nel nostro tempo di preghiera mattutino. En nuestro tiempo de oración matutino. Ed è una parola che mi ha colpito in quell'occasione. Y fue una palabra que me sacudió en esa ocasión. Perché venivamo da un periodo di difficoltà. Porque me recordaba un periodo de dificultad. Ah, porque venimos en un tiempo de dificultad. Dal punto di vista familiare. Desde el punto de vista familiar. Dal punto di vista comunitario. Desde el punto de vista comunitario. In un contesto di crisi nazionale. Y dentro de un contexto de crisis nacional. Di crisi nazionale. Nazionale. Sì. E quindi c'era una somma di fattori che creavano un senso di aridità e di deserto. Y entonces eso era una suma de cosas que creaban un sentido de desierto. Di aridità e di deserto. De aridez y de desierto. E come capita in stagioni di questo tipo, un senso di disorientamento. Y como parece haber en medio de este tiempo un sentido de desorientación y di disorientamento. Desorientación. Sì. E capita, credo, spesso, almeno a me capita, di attraversare dei momenti di difficoltà nel corso della vita. Parece che per il momento, per lo meno a me mi è passato di tener che attraversare per momenti di difficoltà nella vita. Credo che capiti a tutti i credenti. Credo che questo le cade a quasi tutti i credenti. E credo a tutti proprio. Credo che veramente a tutti. E capita anche ai pastori. E le succede anche ai pastori. Di passare attraverso le valli, non solo sulle montagne. de pasar a través de valles y no solo estar en la montaña. Tempi di silenzio, tempi di solitudine, tempi di disorientamento. Silenzio, soledad, sofrimiento. De silencio, de desorientación. Qualcuno che dice amen? Amen. Capita a tutti, quindi. Nos alcanza a todos. Era un tempo di questo tipo. Era un tempo di questo tipo. E quindi questa parola è arrivata come una parola di messa in attenzione. O sea, questa parola mi llegó come una parola di presa in attenzione. In particolare mi ha attirato il versetto 7. In particolare mi toccò il versicolo 7. Questa parola arriva in un contesto di crisi della comunità di Efeso. Esta palabra llega en un momento de crisis de la comunidad de Éfeso. Ricordiamo que ancora siamo qui alla fine del primo secolo. Recordemos que en este momento del Apocalipsis estamos hacia finales del primer siglo. E quindi la vita di Cristo, la morte, la risurrezione di Cristo, la Pentecoste non è lontana. Por lo tanto, la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, el Pentecostés no eran una cosa lejana. Poche decine di anni. Poche decine di anni. Pocas decenas de años atrás había ocurrido eso. E la chiesa, le chiese già vivono delle difficoltà. Y la iglesia y las iglesias ya vivían en dificultad. Voi siete a distanza di poche decine di anni di movimenti di risveglio potenti, gloriosi. Ustedes están apenas unas pocas decenas de años después de un movimiento de avivamiento muy poderoso. Bene, Efeso è una delle comunità a cui parla il Signore. Efeso es una de las comunidades a las que el Señor e parla degli orecchi. Y les habla acerca del oído. Evidentemente si era prodotto già un fenomeno di ipoacusia. Es obvio que ya se había producido un fenómeno de hipoacusia. Io ho fatto l'anno scorso 70 anni. L'anno passato compì 70 anni. E devo confessare pubblicamente che ho qualche problema di ipoacusia. E devo confessare pubblicamente che tengo alcuni problemi di ipoacusia. È naturale. È naturale. C'è più disagio a confessare l'ipoacusia che la difficoltà della vista? Tengo meno disposizione più difficoltà a confessare. Ah, difficoltà, sì, a confessare i problemi con l'audizione che con la vista. Piuttosto che con la vista, no? Però c'è, va bene? Va bene, no? E come nel naturale, così nello spirituale. E così come passa nello naturale, succede nello spirituale. Si può produrre un fenomeno di ipoacusia. Si può produrre un fenomeno di ipoacusia, di falta di oído. E siamo abituati ad ascoltare la parola di Dio, siamo abituati a parlare del risveglio, dello Spirito Santo, eccetera. Però in parallelo si produce una ipoacusia spirituale. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, a escuchar acerca de avivamientos, a escuchar un montón de cosas, pero paralelamente se suele producir un fenómeno de hipoacusia, de falta de audición. E lo Spirito Santo interviene e dice: attenzione. El Espíritu Santo interviene y dice: presten atención. Dice: c'è bisogno di un orecchio attento. Dice: tienen necesidad de un oído atento. Chiesa, hai bisogno di avere un udito aperto. Iglesia, tienes necesidad de tener un oído abierto. Chiesa, devi ascoltare. Iglesia, tienes que escuchar. È molto importante ascoltare. Es muy importante escuchar. È molto importante come ascoltare. Y es muy importante cómo escuchar. A volte anche nella coppia. A muchas veces aún dentro del matrimonio si produce un fenómeno de abbassamento de la capacidad de ascolto del partner. Se produce una especie de desgaste o decaimiento de la capacidad de escuchar al compañero. Un discepolo, un fratello dice: mettiamo gli orecchi a folle. Mettiamo l'orecchio a folle, come la macchina, no? Non c'è più la marcia, l'orecchio a folle. Pongamos, algún amigo mio dice, pongamos el oído al punto muerto. A volte succede così tra marito e moglie. A molte donne le passa così entre marito e moglie. Che la moglie parla. Però le orecchie sono a fondo. Sì, la sorella, la vita dell'uomo sta in punto muerto. Che succede? Che viceversa. Viceversa. E così lo Spirito Santo chiama l'attenzione alla Chiesa. Así que el Espíritu Santo le está queriendo llamar la atención a la Iglesia. Y focaliza sul aspecto estratégico del ascolto. Y se focaliza sobre el aspecto estratégico de esta escucha. Y yo pienso que esto es particularmente importante en tiempos de dificultad y en tiempos de crisis. Yo creo que esto es particularmente importante en tiempos de dificultad y en tiempos de crisis. Porque los tiempos de dificultad y los tiempos de crisis sono ordinati al processo di trasformazione che Dio ha in cuore per noi. Perché questi processi di crisi e di difficoltà hanno sido puestos in ordine por Dios a fin di producire cambio e trasformazione in noi. Quindi importanza strategica dell'ascolto. Así que hay una importancia estratégica en el escuchar. Ed è molto importante che di tanto in tanto, magari anche ogni giorno, ma se no ogni settimana, ogni mese, ci chiediamo, sto ascoltando il Signore? O sea, è molto importante che cada día, o por lo menos, una vez por semana, o por lo menos, una vez por mes, nos preguntemos, ¿estoy escuchando al Señor? Perché c'è un altro aspetto che qui è evidente, almeno è diventato evidente per me nel versetto 7. Perché también acá hay otra cuestión que, por lo menos a mí, risultato importante in questo versicolo 7. Il rapporto che viene stabilito tra l'ascolto e la vittoria. Y es la relación que se establece en la capacidad de escuchar y el obtener vittoria. Perché dice chi ha orecchio ascolti e poi dice a chi vince io darò. Porque dice que tiene oído oiga y después dice al que venciere le daré. Ok, quindi ascolto, vittoria. O sea, escuchar y obtener victoria. Qualità dell'ascolto, qualità della vittoria. La calidad de nuestra manera de escuchar es la misma de la calidad de la È molto importante per noi credenti mantenere sempre viva questa sensibilità alla voce del Signore. Es muy importante para nosotros los creyentes mantener siempre viva esa sensibilidad al oír, al escuchar al Señor. Nel tempo in cui viviamo non è tanto facile. Nel tempo nel che viviamo non è molto facile. Mantenere l'orecchio concentrato, focalizzato sulla voce del Signore. Mantenere l'oído attento, focalizzato sopra la voce del Signore. E la voce del Signore. Perché ci sono molte voci. Perché hay muchas voces. Sono molte le voci. Son muchas las voces. Le voci che vengono dai mass media. Las voces que nos llegan desde los medios masivos, dalle varie offerte religiose, de las diversas ofrecimientos o ofertas religiosas, il supermercato delle idee, delle proposte, è molto ricco. El supermercado de las ideas y de las propuestas es muy abundante, rico. Ed è molto importante quindi rimanere concentrati sullo Spirito. Pero es muy importante que nos mantengamos concentrados sobre el Espíritu. In modo particolare nei deserti della vita, quelli che io chiamo i deserti della vita. En manera particular en aquello que yo llamo el desierto de la vida. E quando siamo in uno di questi deserti. Y cuando estamos en alguno de estos desiertos. Che può essere un deserto della coppia. Que puede ser un desierto de matrimonial. De la coppia, del matrimonio. Sí. Que puede ser un deserto de la comunidad. Que puede ser un desierto que vive la comunidad. Que puede ser un deserto de la vida familiar. Que puede ser un desierto en la vida familiar. Que puede ser un deserto económico. Que puede ser un desierto económico. Que puede ser un deserto de salud. Que puede ser un desierto en cuanto a la salud. In uno qualsiasi di questi deserti. In cualquiera de estos desiertos. E quando ci sembra poi in particolare di non riuscire a sentire la voce del Signore. Y cuando particularmente sentimos que no estamos escuchando la voz del Señor. Ascoltare. e riempire il vuoto, la solitudine di questo deserto. Y volvamos a llenar la soledad, el vacío de este desierto. Con quello che è essenziale alla vita cristiana. Con aquello que es esencial para la vida cristiana. E che è ricordato qui in Apocalisse. Y que se nos recuerda aquí en el Apocalipsis. E che ha da fare con l'amore. Que tiene que ver con el amor. E ha da fare con le opere. Y tiene que ver con las obras. Riempire il vuoto della crisi con l'amore e con le buone opere. Tenemos que volver a llenar ese vacío que se ha producido en la crisis con el amor y las buenas obras. Il Signore ci attira nel deserto. ¿El Señor? A volte il Signore ci attira nel deserto. A veces el Señor nos coloca en el desierto. Perché vuole fare un lavoro nella nostra vita. Porque quiere hacer un trabajo, una obra en nuestra Osea vida. Osea 2, versetto 14. Osea 2, versículo 14. Pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Di là le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Continua. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Y allí cantará en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Così che non tutti i deserti. Así que no todos los desiertos. Sono il risultato dell'azione del diavolo. Son un resultado de la acción del diablo. Ci sono dei deserti che sono il risultato dell'azione di Dio. Hay desiertos que son resultado de la acción de Dios. Gesù fu portato dallo Spirito nel deserto. Gesù fu llevado por el Espíritu al desierto. Così è possibile che lo Spirito ci porti nel deserto. O sea, è possibile che sia l'Espíritu il che nos lleve al deserto. È possibile che ci siano dei deserti che noi attraversiamo che siano il risultato della volontà di Dio per la nostra vita. Es posible que ese andar nuestro en el desierto al que hemos sido llevados sea resultado de la voluntad de Dios a nosotros. Così dobbiamo entrare nell'ordine dell'idea che ci sia questa possibilità. Así que tenemos que entrar en una línea de ideas que tengan que ver con esta posibilidad. Perché qui dice in Osea, io la trarrò, la condurrò nel deserto. Porque dice en Oseas, te ve aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. E là parlerò al suo cuore. Hablaré a su corazón. Perché il deserto ha la straordinaria capacità di farci arrivare al cuore della nostra vita e delle situazioni. Perché il deserto tiene la straordinaria capacità di hacernos llegar al mismo corazón de nuestra vida y de lo que. Di spogliarci delle sovrastrutture, delle maschere e di arrivare al cuore dell'esistenza. E despojarnos de las estructuras, de las máscaras y llegar a la misma esencia. E dice che là le darò la valle di Acor come porta di speranza. Y le daré su viña desde allí el valle de Acor por puerta de esperanza. Cioè la valle del turbamento e dell'afflizione come porta della speranza. O sea que Acor, que significa la puerta de la aflicción y de la turbación, se lo va a dar como puerta de esperanza. Così è possibile che l'afflizione e il turbamento siano una porta per introdurci alla speranza di una nuova stagione, di una nuova fase, di un nuovo tempo. O sea que puede ser que este ir por el valle y el desierto sea el inicio o la apertura para una nueva, digamos, una nueva puerta para la esperanza y para per un nuovo tempo, per una nuova stagione. Para un nuevo tiempo y para una nueva época. Quindi anche le stagioni negative possono essere funzionali al progetto di Dio per la nostra vita. O sea que más que un momento, una temporada negativa, puede esto ser funcional al proyecto que Dios tiene para nuestra vida. E in questo tempo, in este tiempo, quando Stavo riflettendo a questa cosa. Quando stava riflessionando sobre estas cosas. Il Signore mi portò a un altro brano. Il Signore mi llevó a otro. Ebrei capitolo 10. Ebreos 10. Versetto 23. Versículo 23. Fino al 25. Hasta 25. Ma teniamo ferma la confessione della nostra speranza. Mantengamo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Senza vacillare. Sin vacilar. Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Porque fiel es el que prometió. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Y considerémonos unos a otros. Per incitarci all'amore e alle buone opere. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Non abbandonando la nostra comune adunanza. No dejando de congregarnos, come alcuni sono soliti fare, como algunos tienen por costumbre, ma esortandoci a vicenda, sino exhortándonos, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Questa esortazione è nel contesto di un brano, almeno nella mia Bibbia, che è intitolato Esortazione a perseverare nella fede. Esta exhortación dentro de un pasaje, por lo menos en mi Biblia, que nos llama a perseverar en la fe. El tema de la perseverancia en la crisis. El tema de la perseverancia en medio de la crisis. El tema de la resistencia en la Valle de Acor. El tema de la resistencia en el Valle de Acor. No renunciando a la esperanza. No renunciare alla proclamando la speranza. Proclamare la speranza. Abbiamo visto che l'afflizione e il turbamento possono essere una porta alla speranza. Abbiamo visto che la turbazione e l'afflizione possono risultare una porta per la speranza. Perché fedele è chi ha fatto le promesse. Perché fiel è il che ha fatto la promessa. Però in questa stagione, in questo tempo, in questo deserto, in questa valle, cosa fare? Pero en esta estación, en este desierto, en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Uno, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci. En primer lugar, prestemos atención el uno al otro como dice. Per incitarci all'amore. Sí, acá dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. La traducción italiana dice facciamo attenzione, abbiamo cura gli uni degli altri. En la versión italiana dice, prestemos atención, ocupémonos unos de los otros. Per incitarci all'amore. Para estimularnos al amor. Alle buone opere. A las buenas obras. E non abbandonando la comune adunanza. Y no abandonando la congregación o el congregante. Tre aree di attenzione. Tres áreas en que debemos prestar atención. Amore. Amor. Buone opere. Buenas obras. Comunità. Y comunidad. Amore. Amor. Buone opere. Buenas obras. Comunità. Comunidad. Ripetilo a quello che ti sta a fianco. Díselo al que tienes al lado. Amore. Amor. Buenas obras. Buenas obras. Comunidad. Comunidad. Está confirmando todo esto. Sono tutte cose che hanno da fare con il nostro rapporto con gli altri. Son todas cosas que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Spostare il centro della nostra attenzione da noi, dalla nostra difficoltà, e spostarlo sugli altri. Sacar el centro de nuestra visión de nosotros mismos y colocarlo en los demás. Fare attenzione agli altri. Prestar atención a los demás, considerarlos. Perché è molto importante nel deserto. Perché è molto importante nel deserto. La comunità. La comunità. È molto importante la famiglia. È molto importante la famiglia. È molto importante la comunità. È molto importante la comunità. E tutte queste funzioni sono funzionali al rafforzamento della comunità. E tutte queste questioni sono tienen que ver con rafforzare la vincoli. Quindi nel deserto, nella prova, più famiglia, più comunità. O sea, nel deserto e nella prova, más famiglia e más comunità. Quando penso alle chiese evangeliche. Quando penso alle chiese evangeliche. Alle chiese evangeliche. Uno dei limiti delle nostre comunità. uno de los límites de nuestra comunidad. Es la fuerza, pero también el límite. Es la fuerza, pero también el límite. L'eccesso di concentrazione sull'individuo, sulla persona. Es el exceso de concentración sobre el individuo, sobre la persona. È essenziale che la persona faccia un'esperienza di Dio. Es esencial que las personas tengan una experiencia con Dios. Però è importante che entri in un'esperienza di relazioni che è assolutamente indispensabile per la nostra salute spirituale. Pero también es necesario que entre en una relación, en relaciones que son absolutamente importantes para la comunidad, dentro de la comunidad. Y para la salud también de la persona. Y para la salud de la persona. Porque noi siamo esseri relazionali. Porque en esencia nosotros somos relacionales. E quindi abbiamo bisogno della dimensione delle relazioni, del rapporto con gli altri. E por lo tanto tenemos necesidad de esa dimensión de la relación con nosotros. Quindi la comunità è una dimensione essenziale alla vita del cristiano. O sea que la comunidad es una dimensión esencial en la vida del cristiano. Ora, come costruire la comunità? Ahora, ¿cómo construimos la comunidad? Come rafforzare la comunità? ¿Cómo reforzamos la comunidad? Come sviluppare il senso di comunità? ¿Cómo desarrollar un sentido de comunidad? Il primo ingrediente è l'amore. El primer ingrediente es el amor. Senza amore non c'è comunità. Sin amor no hay comunidad. L'amore è essenziale per la vita comunitaria. El amor es esencial para la vida comunitaria. E in effetti l'amore è essenziale alla nostra vita. De hecho, el amor es esencial para nuestra vida. Perché Dio è amore. Porque Dios es amor. E noi siamo fatti a immagine di Dio. Y nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. E perché dove c'è amore c'è Dio. Así que donde está el amor está Dios. E dove c'è amore c'è luce. Y donde hay amor hay luz. Ci sono diverse citazioni di brani nella scrittura che dicono questo. Hay varios pasajes en la escritura que nos dicen esto. E dove c'è amore, quindi dove c'è Dio, c'è amore per i fratelli. Y donde hay amor, por lo tanto, donde está Dios, hay amor por los hermanos. Dice la scrittura in Prima Giovanni, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. En la epístola de Juan dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Di più, la scrittura dice in Salmo 133 che dove c'è amore c'è unzione. Y más, en el Salmo 133 dice que donde hay amor hay unción. L'unzione è legata all'amore. La unción va ligada al amor. Dove c'è amore c'è unzione. Donde hay amor hay unción. Non hai bisogno di gridare per l'unzione. No es necesario gritar per avere l'unzione. Para recibir unción. Basta costruire l'amore. Basta costruire l'amore. Perché dove c'è l'amore, porque donde hay amor, viene ordinata la benedizione, la vita. Ahí Dios envía bendición divina. Salmo 133. Salmo 133. È un'azione sovrana di Dio. Es una acción soberana de Dios. Che è legata alla espressione d'amore, alla comunione d'amore. Ligada a la expresión de amor, a la comunión en amor. Non solo, perché dove c'è amore ci sono buone opere. Y también porque donde hay amor hay buenas obras. Perché l'amore porta a fare buone opere. Porque el amor nos lleva a hacer buenas obras. Perché che sono opere d'amore? Que son obras de amor. Non sono opere morte, come non dice. Non sono obras muertas. Perché sono vivificate dall'amore. Porque son vivificadas por el amor. Perché dove c'è l'amore nasce e si rinnova la comunità. Porque donde hay amor nace y se renueva la comunidad. La scrittura dice in Primo Giovanni capitolo 4. La scrittura dice in Primera Juan. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Amados. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 7. Amados, amémonos unos a otros. Perché l'amore è da Dio. Porque el amor es de Dios. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. E Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestro peccato. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. E aggiunge nel capitolo 3 al versetto 14. Y agrega en el capítulo 3 del versículo 14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Chi non rimane, chi non ama, rimane nella morte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ora io ho vissuto abbastanza anni nella chiesa per sapere che tutti quanti siamo d'accordo con questi con questa parola, allora, ma che è una parola molto difficile da praticare. Allora yo he vivido muchos años dentro de la iglesia tanto como para saber que todos estamos perfectamente de acuerdo con estas palabras, pero es una palabra muy difícil de practicar. È una parola molto dura. È una parola molto dura. E superficialmente siamo bravi ad amarci. Superficialmente siamo buonissimi per amare. Però nel nostro cuore, nelle nostre attitudini, nelle nostre modalità di relazione. Però nel nostro corazón, nelle nostre attitudini, nella modalità delle nostre relazioni. Nel segreto della nostra coscienza. Nel segreto della nostra coscienza. Critichiamo. Criticiamo. Siamo negativi. Somos negativos. E mormoriamo. Murmuramos. E quindi non viviamo in effetti questa dimensione così intensa di coinonia. Por lo tanto, en realidad no vivimos esta relación así de intensa con una coinonia. E mentre facevo questa riflessione, y mientras hacemos estas reflexiones, perché dicevo noi abbiamo bisogno di più comunità. Que en las que decimos necesitamos de una mayor, de una comunidad mayor, una comunión. Es vital para atravesar el nuestro desierto tener más comunidad. Es vital para que podamos atravesar nuestros desiertos que haya más comunidad. Me ha colpito una palabra. Me ha choqueado una palabra. Que poteva diventare un aiuto per vivere l'amore. Que podría resultar una ayuda para vivir en amor. E questa parola è misericordia. Y esta palabra es misericordia. Que l'amore per potersi esercitare. Que para poder ejercitarnos en el amor. Deve essere a cuore dell'amore deve esserci la misericordia. El corazón mismo del amor debe ser la misericordia. Misericordia del marito per la moglie. Misericordia del marido por la esposa. Misericordia della moglie per il marito. Misericordia della mujer per il marito. Misericordia per l'altro pastore. Misericordia per l'altro pastore. Misericordia per il fratello per la sorella. Misericordia per la hermana, per l'hermano. Misericordia per quella famiglia che è così strana e diversa da me. Misericordia per aquella famiglia che è extraña e differente. La misericordia come uno strumento indispensabile per attivare l'amore. La misericordia como instrumento indispensable para activar el amor. Ora la misericordia es necesaria innanzitutto con noi stessi. E ahora la misericordia es necesaria primeramente para con nosotros mismos. Pero poi è necessaria anche con gli altri. Pero luego es necesaria para los demás, para con noi, noi viviamo di misericordia. Nosotros vivimos con misericordia. Ogni giorno viviamo di misericordia. Cada día vivimos por la misericordia. Noi siamo fondati sulla misericordia. Estamos fundados sobre la misericordia. Sulla misericordia di Dio per noi. Bajo la misericordia de Dios por nosotros. E siamo abitati dalla misericordia. Y estamos siendo habitados por la misericordia. Gesù, la misericordia di Dio, abita dentro di noi. Jesús, que es la misericordia de Dios, habita dentro de nosotros. Se Gesù non fosse la misericordia di Dio, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo per noi. Si Jesús no fuese la misericordia de Dios, cada día podría ser el último para nosotros. Così la misericordia è essenziale alla nostra vita, alla nostra esistenza. Por lo tanto, la misericordia es esencial para nuestra vida, para nuestra existencia. Misericordia con noi stessi. Misericordia para con nosotros. Misericordia con il nostro passato. Alcuni di noi hanno esperienze molto brutte nel passato. Misericordia para con nuestro pasado. Muchos de nosotros tenemos experiencias muy feas en el pasado. Memorie dolorose del nostro passato. Memorias dolorosas de nuestro pasado. Esperienze traumatiche del nostro passato. Experiencias traumáticas de nuestro pasado. Misericordia per noi. Misericordia con nosotros mismos. Misericordia con il nostro presente. Misericordia hacia nuestro presente. E misericordia con i nostri fratelli. Y misericordia con nuestros hermanos. Dicevo, nella coppia è essenziale. Y decimos dentro de la pareja, el matrimonio es muy importante. Yo creo que ningún matrimonio possa reggere senza misericordia. Yo creo que ningún matrimonio possa pueda regirse sin la misericordia, pueda llevarse a la misericordia. Mi mujer está de acuerdo. Mi mujer está de acuerdo. Io ho bisogno della misericordia di mia moglie. Io preciso della misericordia di mio figlio. Ho scoperto negli anni di avere bisogno anche della misericordia dei miei figli. Y he descubierto con los años que aún necesito de la misericordia de mis hijos. Perché scopro dopo 20 anni che avrei potuto essere un padre migliore 20 anni fa. Porque he descubierto con el paso de los años, después de 20 años, que podría haber sido un mejor padre. E così misericordia anche da parte dei figli. Así que, hasta misericordia de parte de los hijos. E tutti quanti sappiamo che la misericordia è un ingrediente essenziale della vita di Dio. Y todos sabemos que la misericordia es un ingrediente esencial de la vida de Dios. Sapete, Dio fa solo quello che Egli è. Dios hace solo lo que Él es. Lui esercita la misericordia. Perché è misericordioso. Él ejercita misericordia porque es misericordioso. E dunque dentro la struttura di Dio c'è l'elemento della misericordia. Y es más, dentro de la misma estructura de Dios está la misericordia. Ecco, se volessimo fare un disegno, io farei tre cerchi. Si pudiéramos hacer un dibujo, yo haría tres círculos. Il cerchio dell'amore. Il circolo dell'amor. Dentro, all'interno, il cerchio della misericordia. Dentro di esso, il circolo della misericordia. È quello che anima l'amore. È lo che alienta o anima l'amore. E rende possibile l'amore. E hace possibile l'amore. E dentro ancora. E aún más adentro. Un altro cerchio. Otro circolo. Che è quello dell'umiltà. Che è quello dell'umiltà. Perché il nostro Dio è un Dio umile. Perché il nostro Dio è un Dio umile. Ora, quando noi, tratto questi due aspetti, poi concludo. Quando noi pensiamo... Voy a tratar dos aspectos y termino. Quando nosotros pensamos... Alla misericordia nella comunità. En la misericordia dentro de la comunidad. In ogni più piccolo nucleo di comunità. Dentro de cada núcleo pequeño de la comunidad. Nei gruppi, in famiglia, in chiesa. En los grupos, en las familias, en la iglesia. Leggo una citazione di un amico. Leo una cita de un amigo. Dice: dobbiamo imparare a convivere con la debolezza. Debemos aprender a convivir con la debilidad. Nella vita spirituale, se vissuta con serietà, prima o dopo facciamo l'esperienza della nostra debolezza. En la vida cristiana, si la llevamos a cabo con responsabilidad, antes o después hacemos la experiencia de la nuestra debilidad. De nuestra propia debilidad. Llegamos a experimentar nuestra propia debilidad. Y de la nuestra debilidad como el lugar de encuentro con el Señor. Y nuestra debilidad se convierte en el lugar de encuentro con el Señor. E Dio non ci guarisce perché nell'esperienza della ferita io lo possa incontrare. Y Dios no nos sana para que en esa experiencia de ser heridos nosotros lo podamos encontrar a Él. dobbiamo uscire dall'illusione che occorre aspettare di essere perfetti. Debemos huir de la ilusión de pensar que podemos ser o que debemos ser perfectos. Belli e santi. Bellos y santos. Per incontrare il Signore. Para encontrar al Señor. Muy bien. Il valore evangelico di una comunità. El valor evangélico de una comunidad. Secondo me, dice questo amico. Según yo lo creo, dice mi amigo. Non si fonda sulla pretesa della perfezione. No se fundamenta sobre la premisa de la perfección. Ma sulla colpa e sul perdono che circola tra i suoi membri. Sino por la culpa. Por las culpas y el perdón que circula entre los miembros. Porque es así que Dios se abre un barco en medio de la comunidad. Porque es así que Dios se abre espacio dentro de la comunidad. Los juicios que se hacen sobre uno y sobre otro. Los juicios que se hacen sobre unos y sobre otros. La pretensión de saber mejor. La pretensión de saber más. De decir mejor. De hablar mejor, di fare meglio, de hacer las cosas mejor. Non sono atteggiamenti evangelici. Non son attitudes evangélicas. E credo che questo valga per tutta la Chiesa. Y creo que esto vale para toda la Iglesia. Ogni piccola comunità, cada pequeña comunidad, che riesca a costruire se stessa sulla debolezza benedetta dal Signore, que se arriesga a construirse a sí misma sobre la debilidad del Señor, benedetta dal Signore, bendita por el Señor, e sul perdono reciproco, y sobre el perdón recíproco, invece que sulla competizione, sulle prove di forza, en lugar de medirse por la competencia entre unos y otros y tratar de imponerse por la fuerza, da un aiuto importante all'insieme della Chiesa. Hace una ayuda o brinda una ayuda importante a la unidad y a la cercanía de la Iglesia. Si una comunidad no sabe dar espacio al débil, si una comunidad no sabe darle espacio al débil, difícilmente se puede considerar una comunidad evangélica. Difícilmente se la pueda considerar una comunidad evangélica. Uno dei primi compiti del cristiano, una de las primeras actitudes del cristiano, è quello di perdonare. È la de perdonar. E di perdonare tutto. Y perdonar todo. E la vitalità di una comunità, y la vitalidad de una comunidad, non si misura né dalla bellezza della lode e dell'adorazione, non se mide por la belleza y la grandiosidad de la adoración, né dal suo impatto all'esterno, ni dell'impatto che haga sobre el exterior, e nemmeno sul numero delle vocazioni, y menos por el número de convertidos. Si misura, a mio parere, se mide, a mi parecer, dalla qualità della riconciliazione che circola tra i fratelli. De la calidad depende de la calidad de la reconciliación que circula entre los miembros. Qualcuno mi dice amen? Amen. Ciò che Dio ha nel suo cuore, lo che Dio tiene in suo corazon, deve passare nel nostro. Deve passare nel nostro. Due punti. Dos puntos. La misericordia. La misericordia. La misericordia. Questo è quello che c'è tutta la vita e pensare. Muy bien. La misericordia è essenziale per ogni relazione, per tutte le relazioni. Nessuna relazione regge senza misericordia. Ninguna relación funciona sin misericordia. Naturalmente a noi non è possibile. Naturalmente non nos è possibile a nosotros. Dipende da chi abita in noi. Depende de chi abita in nosotros. Voglio sottrarmi ad ogni legalismo. Voy a sustraerme del legalismo. Adesso non si tratta di fare di più, di moltiplicare gli esercizi spirituali, la disciplina. Hacer más, a multiplicar las disciplinas espirituales, los ejercicios espirituales. Il segreto del cristianesimo sempre El secreto en el cristianismo siempre è relazionale. Es relacional. E in questo caso anche. Y en este caso también. È la nostra relazione con colui che abita in noi, il Signore. En este caso es la relación dentro de nosotros de aquel con aquel que nos habita, el Señor. Con il misericordioso. Con el misericordioso. Questo è uno dei titoli dati a Dio nell'Antico Testamento. Este es uno de los títulos que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Il misericordioso abita in noi. El misericordioso habita en nosotros. Il segreto per la nostra misericordia è il misericordioso. El secreto para tener misericordia es el misericordioso. Il rapporto con il misericordioso. La vinculación con el misericordioso. Vi ho detto che c'è un primo cerchio. Hemos visto que hay un primer círculo. C'è un secondo cerchio. Hay un segundo círculo. C'è un terzo cerchio. Hay un tercer círculo. Al cuore del cuore di Dio. En el corazón del corazón de Dios. C'è l'umiltà. Está la humildad. Il nostro Dio è un Dio umile. Nuestro Dios es un Dios humilde. Amén. Amén. Me siento nuevo, calmado, con el mundo de tu Señora, para que todos vean que esto viene de tu mano, que tú lo has hecho. Te lo leí hoy. Eso me conmueve. Perché quello che ho imparato quando ero ragazzo. Porque lo que yo aprendí cuando era niño. Anche nella chiesa. Aún en la iglesia. Onnipotente, onnisciente. Que Dios era omnipotente, omnisciente. Più. Más. Non avevo considerato Dio meno. No lo consideramos un Dios menos. Ma di recente sono arrivato a questa comprensione. Pero últimamente hemos llegado a esta conclusión. Que al cuore di Dio. Que en el mismo corazón la de Dios, parte più profonda di Dio, la parte más profunda de Dios, c'è l'umiltà. Esattamente. E che la gloria di Dio manifestata in Cristo, es que la gloria de Dios manifestada en Cristo, abbia da fare essenzialmente con l'umiltà. Tiene que ver esencialmente con la humildad. Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2. Gli Evangeli. Gesù che lava i piedi ai discepoli. Gesù che le lava i piedi ai discepoli. Gesù che serve alle tavole. Gesù che serve alla messa. Gesù non fa teatro. Gesù non hace una puesta in escena. Non fa teatro. Non è un attore. Non è un attore. Lui fa quello che lui è. Él hace lo que él mismo es. E sentite quest'altra parola che mi ha colpito. E escuchen questa altra parola che también mi ha toccato molto. Il disegno di Dio per l'uomo. Il disegno di Dio per l'uomo. Realizzato in Cristo. Realizzato in Cristo. Manifesta il suo essere intimo. Manifesta sua essenza e suo ser más intimo. Se l'incarnazione stessa è atto di umiltà. Sí, la encarnación misma es un acto de humildad. Lo es porque Dio es essere de humildad. Y lo es porque Dios es humildad. Jesús ha dicho que ha visto me ha visto el Padre. Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quindi cuando lo vediamo incarnarsi e tutta la sua vita vediamo il Padre. Y cuando lo vimos encarnarse y en toda su vida hemos visto al Padre. Quindi cuando lo vedo lavare con umiltà i piedi degli uomini. Por lo tanto, quando lo ven lavar con umiltà los pies de los hombres, io vedo, se dice la verità, si dice la verdad, Dio stesso, el mismo, eternamente, misteriosamente, servo, con umiltà. Nel più profondo della sua gloria. Nello più profondo della sua gloria. Nel più profondo della sua gloria. Nello più profondo della sua gloria. L'umiliazione di Cristo. La umiliazione di Cristo. Non è una manifestazione eccezionale della gloria. No es una manifestación excepcional de la gloria. Esta manifiesta en el tiempo que l'umiltà è al cuore della gloria. Questo si manifiesta nel momento in cui la umiltà sta nel mismo centro, corazon della gloria. È un paradosso talmente grande che la ragione vacilla. È una paradoja tan grande che nostra mente titubea. Smarrita, disorientata, non capisce più. Sta disorientata, non entiende nada. Eppure, sin embargo, se si fa riferimento all'esperienza semplicissima che si ha dell'amore, però si facciamo una referenza alla esperienza molto semplice dell'amore, per quanto il nostro amore, per quanto intriso di peccato, per quanto bagnato dal peccato, intriso di peccato, del nostro amor intrinsecamente impregnato del peccato, un raggio di luce filtra attraverso la notte delle parole. Se filtra un raggio di luce attraverso della notte delle parole. Si intuisce che amare con orgoglio non è veramente amare. Se intuisce che amare con orgoglio non è amare verdaderamente. Perché anche la misericordia, perché hasta la misericordia può essere esercitata con orgoglio. Può essere esercita con orgoglio. Anche l'amore. E hasta el amor può essere inquinato dall'orgoglio. Può essere inquinato dall'orgoglio. Dunque, se Dio è amore, por lo tanto, si Dios es amor, se è veramente amore, si verdaderamente es amor, egli è umile. Egli è umile. Non può non essere umile. Non può non essere umile. Ora, è nella linea della potenza che spontaneamente noi come creature cerchiamo Dio. Ora, è nella linea del potere che noi naturalmente come creatura buscamo in Dio. E spesso la nostra conversione è legata alle categorie di potenza. E con frequenza la nostra conversione va legata a un'esperienza del potere. E spesso le categorie più frequenti nel mondo evangelico sono quelle della potenza. E a menudo le categorie più frequenti dentro del mondo evangelico sono le categorie del potere. Della vittoria, del successo. Della vittoria, dell'esito. Della guarigione. Della sanità. Così, se quella diventa l'unica categoria. Así que si esta se convierte en la única categoria. Siamo mal convertiti, non siamo convertiti bene. Siamo mal convertiti, non siamo convertiti bene. Così mal convertiti oscilliamo tra due immagini del divino. Así que mal convertidos oscillamos entre dos imágenes del divino, dello divino. E così conciliamo alla meno peggio, incapace di unificare queste immagini dentro la nostra esperienza di vita. Así que penso che tenemos que reconciliar dentro de nuestra experiencia estas dos experiencias de vida. Una simile coesistenza è un disastro per l'anima e per lo spirito. Ahora, una existencia en sí es una coesistencia del poder y debilidad es, ¿verdad? È un disastro per l'anima. Es un desastre para nuestra alma. Per l'anima e per lo spirito. Perché non sappiamo come gestire i momenti di difficoltà e debolezza. Perché non sappiamo come attuare in momenti di difficoltà e debolezza. È l'onnipotenza del Calvario che rivela la vera onnipotenza di Dio. È la onnipotenza del Calvario la che rivela la verdadera onnipotenza di Dio. L'umiltà dell'amore ci offre la chiave. La umiltà dell'amore nos ofrece la chiave. È sufficiente un po' di potenza per esibirsi. Hace falta solo un poco de poder para exhibirse. Ce ne vuole molta per ritirarsi. Ce ne vuole molta di potenza per ritirarsi. Ah, y se requiere mucho poder para retirarse. Dio è potenza illimitata. Dios es un poder ilimitado. Di ritrazione di sé. En cuanto a retirarse o retraerse. È potenza illimitata di nascondimento. Es un poder ilimitado para ocultarse, esconderse. Di nascondersi. Di escondersi. di non farsi vedere. Di non essere vedere. E forse questo è l'argomento più forte per dimostrare la esistenza di Dio. E questo è l'argomento più forte per mostrare. Per dimostrare sì. L'esistenza di Dio. Per dimostrare l'esistenza di Dio. Così l'umiltà è al cuore di Dio. Así que la humildad está en el corazón de Dios. Amore, amor, misericordia, misericordia, humildad. Humildad. Humildad como el fuego. La humildad como el fuego. Que rende posible un correcto ejercicio de la misericordia. Que hace posible el correcto ejercicio de la misericordia. Y la expresión y la manifestación del amor. Y la expresión y la manifestación del amor. No el amor en la sola obra. No el amor de los teleteatros, ma l'amore di Gesù Cristo. Sino el amor de Jesucristo. Questi ingredienti sono essenziali. Estos ingredientes son esenciales. Per la costruzione della comunità. Para la construcción de la comunidad. Per la costruzione del matrimonio. Para la construcción del matrimonio. Per la costruzione della famiglia. Para la construcción de la familia. Per la costruzione dell'amicizia. Para la construcción de las amistades. Perché la comunità possa essere veramente una comunità cristiana. Para que la comunidad pueda ser realmente una comunidad cristiana. E abbiamo bisogno di comunità. Y necesitamos comunidad. L'Italia ha bisogno di questo tipo di comunità. L'Italia en este momento necesita de la comunidad. Argentina ha bisogno di questo. Argentina también necesita de ser comunidad. Tutta l'America Latina ha bisogno di questo tipo di comunità. Toda la América Latina necesita de este tipo de comunidad. E così le nostre comunità diventano laboratori. De tal manera que nuestras comunidades así se convierten en laboratorios. In officine. En talleres. In palestre. In pulpito, se in lugares. In palestra, dove si esercita, si fa ginnastica. Ah, no, in ginnasio. Sì. Dove ci esercitiamo a questo tipo di attitudini. Donde ejercitamos este tipo de actitudes. E in questo modo diventiamo profumo. Y de esta manera nos convertimos en perfume. Perché è scritto in Giovanni 17. Porque dice en Juan 17. È scritto. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Io les he dado la gloria che tu mi hai dato. Affinché siano uno. Para que sean uno. Para que sean. Come noi siamo uno. La gloria di Cristo è fatta di questi tre circoli. Está hecho de estos está conformada por estos tres círculos. E questa è la gloria che ci ha dato. Esta es la gloria que nos ha dado. E questa è la gloria che rende possibile la costruzione dell'unità. Y esta es la gloria que hace posible la construcción de la unidad. E questa gloria è stata innestata in noi. Y esta gloria debe estar en nosotros. Per mezzo dello Spirito Santo. Por medio del Espíritu Santo. Così che adesso abbiamo questa gloria. Así que ya tenemos esta gloria. Che è qui questa gloria. Que está aquí esta gloria. Che è innestata dentro di noi. Que está innestata come l'albero si innesta sul. Ah, che sta arraigata diciamo sì. Nosotros. Siamo stati resi partecipi della natura divina. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. E attingendo a questa gloria. Y teniendo en cuenta esta gloria, o de acuerdo con esta gloria, possiamo crescere verso l'unità. Podemos crecer hacia la unidad. Il lavoro sovrano soprannaturale è stato fatto. El trabajo, la obra sobrenatural ya ha sido hecho. Adesso c'è bisogno della nostra collaborazione. Ahora hace falta nuestra colaboración. Semplicemente coltivando la nostra relazione. Cultivando nuestra relación. Con il Signore della Gloria. Con il Signore della Gloria. L'umile. El humilde. Il servo. El siervo. Il mansueto. El manso. Il misericordioso. El misericordioso. Attingendo dalla sua vita. Prendendo dalla sua vita. Tomando de su vida. Abbiamo vita. Tenemos vida. Vita da vita. Vida de la vida. Senza la vita nessuna imitazione. Si no hay vida no podemos imitar. L'imitazione di Dio è legata profondamente alla presenza di Dio. Imitare a Dio sta profondamente legato con la presenza di Dio. L'Argentina ha bisogno di voi. Argentina precisa di ustedes. Di questa comunità. De esta comunidad. E di tutte quante le altre comunità. y de todas las otras comunidades. C'è una grande crisi che attraversa il mondo evangelico. Hay una gran crisis que está atravesando el mundo evangélico. Una crisi di autenticità. Una crisis de autenticidad. Una crisi di credibilità. Una crisis de credibilidad. Sì, molte manifestazioni. Hay muchas manifestaciones. Però trasformazioni di vita. Pero transformación de vida. C'è un gap. Hay como un espacio vacío en el medio. C'è un gap tra la proclamazione e la dimostrazione. Un vacío entre la proclamación y la demostración. E questo gap può essere riempito. Y este vacío, este vuoto, vacío, esta brecha se puede llenar. E può essere riempita. Puede llenarse. Attraverso una relazione più profonda. A través de una relación más profunda. Più bella, más hermosa, autentica, quotidiana, con il nostro Signore. Con il nostro Signore. Questo è il mio augurio per voi. Questo è il mio deseo per voi. Questo è il mio augurio ed è il mio desiderio per voi. Mi deseo e lo che les auguro. Amen. Amen.